Siete in forma stasera, bravo. Grazie. Bravo Pardo, grazie. Vai. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. Dybala, controlla e tiro violento. Rete, rete. Gol. Capolavoro di Dybala. Capolavoro di Dybala. 2-0 Juve. Un gol gioiello. Once upon a time in a town like this. Parte Maxi Lopez, palla dentro, Torino 1, Roma 1, ha segnato lui, Maxi Lopez dal dischetto, un rigore che farà molto parlare. Riparte destro in posizione regolare, occhio alla palla buona per destro, solo davanti a Reina, destro! Con il destro, fa 1-0, fa 1-0! Abbiamo fatto un lunghissimo periodo in cui siamo stati concentratissimi, poi abbiamo speso tantissimo e probabilmente è inevitabile avere un calo dal punto di vista nervoso e dal punto di vista della capacità di determinazione e di concentrazione. Batte questo calcio d'angolo, il colpo di testa e gol di Gonzalo Rodriguez. Chiudi i conti, col capitano, la Fiorentina al 41esimo. Sapevamo che dovevamo dare il massimo ogni partita, iniziare bene il campionato e per fortuna ancora siamo lì su. In mezzo! 1-0 Inter! Gol di Ljajic! Non credo ci sia stata deviazione! Gol di Ljajic! Era importante rivincere subito dopo Napoli, questo era molto importante, insomma, per confermare quello di buono che avevamo fatto. Adesso siamo già alle canzoni di Natale, mi arrendo. Buongiorno Pierluigi Pardo. Come va? Perché benissimo. Hai questa cosa contro le canzoni di Natale? Che mi fa venire l'orticaria, dichiaravo adesso a Giorgio De Luca. Che ci vuoi fare? I temi sono tantissimi. This is Christmas. Ma smetti, per favore, abbiamo un ospite importante da salutare. Marco Di Vaio. Buongiorno. Ciao Marco. Buongiorno. Non so come sei messo tu con le canzoni natalizie. No, sei... io Marco Di Vaio benissimo. Okay. Io sono uno stalker di Marco Di Vaio, perché più o meno ogni settimana gli chiedo di venire a Tiki Taka, più o meno. La risposta è? No. No, la risposta è troppo. Quando ti ho detto la risposta, quando ormai è diventata uno sketch tra me e te, la risposta è quando siamo salvi. Ho capito. Andando avanti così, quando siamo promossi. Tu fai tifo per noi e noi magari a marzo, aprile potrei. Stasera ho Donadoni, quindi. Non mi lamento. L'allenatore del momento, Marco? Donadoni, così come destro l'attaccante del momento. Cosa ha fatto Donadoni? Come ha cambiato il Bologna? Ma io l'ho detto spesso in queste settimane, cercando di spiegare. È stato bravissimo all'inizio nel sfruttare il lavoro che ha fatto Stelio Rossi, perché comunque ha fatto un lavoro importante a livello tattico. La squadra anche prima non aveva mai sfigurato, era sempre giocata, la squadra era preparata tatticamente. Il mister ha sfruttato quel tipo di lavoro e adesso sta piano piano portando le sue idee, come quella che si è vista ieri, di giocarsela contro tutti, come è stato successo con la Roma, come è successo anche nelle altre partite, tranne che a Torino, e cercare di sfruttare le proprie caratteristiche. Ieri contro il Napoli noi ci siamo presentati con Brienza, Napoli primo in classifica, con Brienza mezzala e con tre attaccanti. Dunque ti sei presentato con le idee ben chiare di sapere, preparata durante la settimana, che dovevi soffrire di squadra, però quando avevi la possibilità di poter sfruttare il tuo palleggio, poter sfruttare le tue caratteristiche, cercare di essere sempre propositivo, e questo è quello che sta cercando di mettere dentro la testa di ogni giocatore l'allenatore. Sì, mi sembra che stia riuscendo. Tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta da quando è arrivato Donadoni sulla panchina del Bologna, adesso i punti sono 16. Pierluigi, tu sai che io ho sempre avuto il pallino di Mattia Destro, anche nei momenti più difficili di questo giocatore. Sì, ma io adesso ho detto oggi, sembra, insomma, sembra facile, non è Batistuta, ecco, però che l'inizio di questa stagione fosse stato negativo e che potesse fare di più non c'erano dubbi, così come anche il fatto che, se guardiamo i suoi numeri dell'esperienza romana, per esempio, sono numeri molto dignitosi, più certo. Che dignitosi, beh, non c'è discussione su questo, quindi sono sorpreso fino a un certo punto, anzi ero sorpreso prima, non infatti sono sorpreso adesso. Infatti anch'io, è stato un grandissimo acquisto, l'abbiamo detto dalla prima ora. Marco Di Vaio, che è stato un grande attaccante, il momento difficile all'inizio la spieghiamo con la storia, un po' la solita storia secondo cui gli attaccanti hanno bisogno di accendersi quando non trovano il gol, diventano nervosi, no, eccetera. No, secondo me dietro a Mattia c'era tutto un discorso diverso. Dietro a Mattia c'era un discorso principalmente fisico, doveva ritrovare determinati carichi e determinati allenamenti che ha perso nell'esperienza romana, a detta sua, dunque doveva tornare a fare determinate cose per sentirsi bene, e dunque ci voleva un processo. C'è da dire anche che lui non ha fatto ritiro con noi, dunque adattarsi a una metodologia di lavoro diversa sicuramente. E poi c'era anche una questione di riadattarsi a una squadra diversa, con obiettivi diversi e con un gioco diverso. Mattia a Roma ha preso giustamente i vizi positivi di quella squadra, che sono negativi per noi, che erano negativi per noi, nel senso che a Roma Mattia poteva rimanere senza toccare palla per tanto tempo e preoccuparsi soltanto della fase offensiva, perché le palle sarebbero arrivate. Qui da noi c'è un tipo di gioco che va fatto in maniera diversa, certo, è molto simile a quello che faceva a Siena, perché lui lo faceva a Siena anche molto bene quando si è messo in mostra nel lottare, quello che sta facendo nelle ultime settimane. Non è un caso che quando lui si è rimesso in condizione fisicamente, probabilmente con il cambio di allenatore anche più responsabilizzato, si è messo a giocare come ha fatto prima, come faceva a Siena, lottando e diventando un punto di riferimento per tutti. Sì. Doveva, campo, doveva a imparare tecnico, di nuovo a fare il titolare, insomma. Doveva imparare, sì, di nuovo a fare il titolare. Il titolare e ritornare a giocare in una certa maniera, come purtroppo le piccole squadre devono fare. Ti sì, capita sì, una palla, due palle a partita, e sbatterla dietro dentro. Dietro però c'è tutto un lavoro che serve alla squadra per farla salire, per togliere la pressione, per crearti tu molte volte da solo anche l'occasione, come è successo ieri nel primo gol, perché certo, se l'hai creata lui nonostante il lancio, però è stato molto bravo. Grandissimo gol quello, grandissimo gol. Dunque c'è secondo me un modo di giocare e interpretare la partita completamente diverso. Mattia, da quando è arrivato Donatoni, sta facendo la grande, e secondo me non è un caso che la squadra sta facendo buono. Marco, ti chiedo un attimo di pazienza, traffico, poi chiudiamo il discorso anche con Pierluigi Pardo. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Tutti convocati. Parto oltre allo stalkeraggio, cosa vuoi sapere ancora da Di Vaio? Voglio sapere, c'è stata la scena famosa fra Dario Rossi e Donadoni, come era maturata l'idea, e insomma mi sembra che questo sia uno di quei casi che non sempre succede. Guarda che cosa sta avvenendo a Palermo, in cui il cambio in panchina muove dei meccanismi. Secondo lui che cosa? Perché insomma non è che Dario sia un allenatore scarso, per carità. Assolutamente no, il mister te l'ho detto anche prima, noi li conosciamo. Io sono stato vicino dall'inizio di questo ritiro, abbiamo fatto tutto insieme e l'ho visto creare e modellare questa squadra e mettergli dentro dei concetti ben chiari. Lui è un tattico e ama la tattica, io l'ho avuto anche come allenatore, e gli piace che la squadra si comporti e giochi in una certa maniera, comunque dandone un'identità, e questo gli è stato riconosciuto anche per Donadoni, onestamente, perché l'ha detto pubblicamente, soprattutto dopo la prima vittoria con l'Atalanta, dove lui ha avuto poco tempo, la squadra comunque, anche se lui ha messo delle cose, degli aggiustamenti nel secondo tempo, devo dire che gli ha dato merito. Però quella è stata proprio una questione di umana, signorile, secondo me gli va dato merito all'uomo, perché è stato un grande mister, perché ci sono incontrati lì nello stesso albergo e l'ha aiutato a Donadoni a capire determinati meccanismi della squadra, dunque lì lato umano è uscito fuori, il mister ha fatto una grandissima cosa. Grazie Marco. Grazie, ciao, buon lavoro, bocca al lupo. Ciao. Marco Di Maio, se vuoi venire prima, magari quando insomma la situazione è già noi ti aspettiamo, non ci offendiamo, e te lo dico perché così pubblicamente vai, cambi idea, voglio fare un giro a Milano eccetera, esatto, di andare a trovare il padre. Pierluigi, vediamo domani il mister quello che mi dice della trasmissione, come viene e tutto quanto. Ah, vabbè. Arrabbiato. Se lo fai arrabbiare, vediamo. Vabbè, vabbè, okay. Vabbè, hai capito, ciao, Marco. Fai il bravo con Donatoni. Vabbè. Ciao Marco. Ciao. Io saluto, grazie. Ciao, grazie. Io saluto subito anche Pierpaolo Marino. Buonasera. Buonasera direttore, buongiorno. Come andiamo? Bene. Se sentite qualche annuncio sono a Fiumicino. Va bene. Senta, ma abbiamo analizzato ora l'aspetto Bologna con Di Vaio, squadra del momento, eccetera, eccetera, ma con il Napoli come la mettiamo? Perché è possibile che quei 20 minuti con l'Inter abbiano in qualche modo messo dei dubbi addosso alla squadra? No, io non penso questo, penso al contrario che sia stata una settimana da prima in classifica, la prima settimana di questo Napoli di Sarri da prima in classifica, che ha un po' non è stata gestita al meglio probabilmente, perché è stato l'impatto con la partita di Bologna che non è piaciuto. Sì. Poi nel finale la squadra comunque ha dimostrato di non arrendersi mai, e che forse magari se la partita fosse durata qualche minuto, una manciata di minuti in più, poteva anche rimediare un risultato per cui avremmo parlato di risultato miracoloso e di Napoli imbattibile e orgoglioso. Però ripeto, secondo me c'è stata una gestione che deve essere migliorata. Io conosco bene la piazza, appunto, di Napoli, e quindi so bene cosa succede quando il Napoli è primo in classifica, perché mi è successo in tutte le categorie, dalla C alla B alla A, avendo vinto tutti e tre i campionati con il Napoli, e so che quelle settimane bisogna fare esperienza per gestirle, a partire dai dirigenti a finire ai magazzinieri. Eh sì, credo che il punto sia proprio quello, Pierluigi. Magari anche quel giro di campo dopo la vittoria con l'Inter, molta euforia, forse troppa. Sì, i giri di campo a campionato non concluso sono quelli che portano più sfiga di tutti, è una cosa incredibile. Io ricordo una penultima o una terzultima partita col Verona, che poi retrocesse in B di Malesani, ero all'Udinese, vinsero la partita contro di noi, erano virtualmente saldi con 5 punti di vantaggio, fecero il giro di campo e poi dopo due partite erano belle retrocessi. Quindi, giri di campo meglio evitarli, meglio evitarli, per Luigi. No, io ho una curiosità su quel tweet della settimana scorsa, mi perdoni Marino, usciamo un attimo dal Napoli poi ne riparliamo. Volevo sapere se si era pentito. Diamo per lei? No, diamoci per tu. No, nel senso che siamo sempre parlato, no? Sembrava, al di là ovviamente della soddisfazione e della felicità per Reia, che sta facendo cose eccezionali, ed è giusto parlare di Atalanta, se ne è parlato fin troppo poco. Però cioè, ti sei un po' pentito di averlo scritto di getto, oppure semplicemente questo è un mondo ipocrita nel quale poi se uno dice una cosa che pensa veramente rischia di... Io quello che ho scritto, no, non me ne pento. Lo ricordiamo, perché... era una cosa tipo Garcia esonerato dal Ferguson degli allenatori italiani. No, non ho scritto esonerato, ho scritto licenziato che significa dare la licenza. Ah, ok. Cioè, che è una cosa diversa. Dare la licenza di allenatore disastroso, non mi riferivo all'esonero, che è una cosa che spetta alle società. Sai che coi tweet ti devi esprimere in poche parole, quindi devi usare un termine che licenziare, se vai sul vocabolario sicuramente troverai tutti i significati di questo termine. E quindi innanzitutto ci tengo a chiarire che non è che volevo sostituirmi alla società, poi oltretutto era Rei a dare la licenza, non certo io. E comunque no, io sai che sono partito nella mia carriera quando tu forse non eri neanche nato, io facevo il giornalista, telecronista, radiocronista, poi grazie a questo mestiere sono stato inserito nell'Avellino Calcio nel 77 come dirigente, quindi non ho smesso mai di pensarla un po' anche da giornalista, e quando non sono tesserato per un club non rappresento un club ma rappresento me stesso, esprimo anche dei giudizi. Garcia è un uomo pubblico, io ho un po' di esperienza per giudicare gli allenatori, penso avendo una 35-36 campionati. Il giudizio su Garcia non è in questo momento positivo. Tengo a chiarire una cosa, la domanda te l'ho fatta proprio perché insomma ci si è parlato, l'abbiamo fatto vedere, l'ha fatto vedere i giornali eccetera, proprio perché è chiaramente un giudizio molto forte, però alla fine viva Dio, no, da un certo punto di vista, ma c'è tanta gente anche proprio questo dell'ipocrisia, cioè, ma c'è tutta la vita, insomma, poi si può discutere ovviamente su se è bravo o no, però No, ma poi io sono anche ex direttore della Roma, fra l'altro, quindi un po' mi interessano sempre le cose come tutte quelle dei miei 6 ex club, e quindi un po' mi sono anche voluto esprimere su un allenatore che anche a pelle, quando l'ho affrontato da avversario, non mi è mai piaciuto né nella preparazione della partita né nel post partita. Cioè io penso che possiamo fare di meglio con gli allenatori italiani, anziché magari farle andare all'estero, anziché importare questo tipo di allenatori. Che non ti piace? Cioè, non riuscire a cambiare la partita in corsa? No, innanzitutto contro l'Atalanta, mi riferisco a quella partita principalmente, non mi è piaciuto l'assetto tattico della Roma. E poi secondo me la Roma ha dei grandi problemi di preparazione fisica, perché ha delle fasi della stagione in cui perde completamente intensità nel gioco, ritmo, e gli avversari la sovrastano dal punto di vista fisico. Se avete visto la partita con l'Atalanta, che tra l'altro è preparata fisicamente dal preparatore di Garcia, del primo anno di Garcia a Roma. Quest'anno però sono quelli presi da Pallotta, i preparatori della Roma. Ma no, ma comunque un allenatore dovrebbe essere sempre il responsabile di tutto. Questo quindi è chiaro. Se poi gliel'ha preso i Pallotta e lui ha perso Febbrari, che era bravo, cioè poi dopo dipende anche dalla personalità che ha l'allenatore, dal suo modo di condurre. Certo. In un club come la Roma ci vuole un manager, perché è un club dove l'allenatore deve essere carismatico, saper, per intenderci, alla Capello, alla Lidl della mia permanenza a Roma, allenatori, perché in queste piazze, io conosco anche la piazza di Roma per esperienza, al di là dei direttori sportivi contano gli allenatori. Ma la sensazione è che lui abbia perso un po' la maniglia sulla squadra. Guarda, questa cosa però che dice Pierpaolo secondo me è verissima, nel senso che poi se guardiamo la storia recente della Roma, hanno vinto soltanto degli allenatori particolarmente carismatici, poi con tipi di carisma diverso, perché chiaramente Capello ha un carisma più duro, più antagonistico rispetto a quello che poteva avere Lidl, che era magari più ironico 30 anni prima. Però erano allenatori che avevano un'immagine pubblica nei confronti dell'ambiente fortissima, che era quella che Garcia ha avuto nel primo anno e che non ha più da parecchio tempo. Quindi secondo me adesso non è facilissimo. Poi questa è anche una città che gli allenatori si rimagna, come diciamo noi a Roma, no? Nel senso che poi vedi Luis Enrique in testa alla classifica o Ranieri in testa alla classifica, pensi che sono stati mandati via da Roma come fossero due fessi, e qualche domanda te la fai. Questo non c'è dubbio, no? Sì, lo stesso Spalletti è stato bruciato dopo alcune stagioni eccellenti. Spalletti ha fatto molto bene a Roma, secondo me. Ma è stato bruciato inteso in senso inglese, fired, licenziato dopo alcune stagioni eccellenti. Ma quello quando in panchina stai troppi anni capita a tutti. Sì, mi diceva il mio mentore Italo Allodi, diceva vinci e scappa. Qual è il limite fisiologico? 3 anni? Sì, nell'ambito da 2 a 4 anni bisogna stare in un club, non di più. Un'ultima cosa per Paolo Marino: cosa pensi invece delle parole di Maldini su Galliani? Poi le facciamo risentire, quasi che Galliani avesse bisogno di un tutor adesso. È la solita diatriba, no? Quando si vuole colpire una persona perché non ha giocato a calcio e che magari ha dimostrato di far bene da dirigente, si comincia a dire ma non conosce lo spogliatoio, ma non è un uomo di campo, si usa anche questa frase. Secondo me Galliani è un personaggio a tutto tondo. Io ho ammirato tanto Maldini in campo, però su questa dichiarazione non lo seguo troppo, anche perché non sta agli ex giocatori doversi esprimere sui loro precedenti datori di lavoro, perché poi Galliani al Milan ha anche un profilo diverso da un vero e proprio dirigente di area tecnica sportiva, perché è praticamente un amico dell'azionista o quasi un socio, uomo di fiducia, certo. Non dimentichiamo che hanno cominciato insieme nell'industria, diciamo, quindi chiaro. Galliani con i suoi ripetitori ha aiutato Berlusconi all'inizio quando vinse il network di Mediaset, quindi non d'accordissimo quando era in campo Maldini, che vidi per la prima volta nella primavera giocare quando aveva 15-16 anni, e dissi che era un predestinato, ma su questa cosa di esprimersi sulle qualità o meno di capire il calcio di un dirigente che dal 75-76 che sta il dirigente, insomma, Ma tra i due, ma tra i due comunque c'è un'antica ruggine, quindi a me non hanno sorpreso tanto quelle parole. Grazie per Paolo Marino, a presto. Ciao, Paolo, grazie direttore. Ciao Felice, ciao. Allora, ci fermiamo per la borsa. Posso dire una cosa? Certo. Ce ne fossero, eh? Poi si può discutere, ovviamente, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se uno di questi, se uno dei problemi di questo mondo, problemi, insomma, una delle cose che ci fanno godere poco di questo mondo è una certa ipocrisia, insomma, qua, no? Chiaro, le cose si possono dire, non c'è niente di male, no? Nell'avere dei pensieri e nell'esprimerli senza stare a sentire tutte le volte il rumore dei nemici. Allora, Pierluigi, ci vediamo per la borsa, poi torniamo, parliamo di Inter, Fiorentina, Juventus, cominciamo a parlare con gli ascoltatori, stiamo aspettando un altro grande ospite, 800240024, poi tocca a voi, quindi prenotatevi. Battaglia, andiamo da Nando Sandito. Nando, seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati all'800240024, numero verde, messaggi, sms e whatsapp al 349-238-6666. Aldo, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, il motivo della mia telefonata è una critica all'intervento di Sarri sugli arbitri. Io sono tifoso del Napoli. Però volevo fare una considerazione sulla partita di ieri, che ho visto attentamente. Senta, per la cronaca, Aldo, lo risentiamo insieme Sarri, così almeno abbiamo il quadro più preciso della situazione. Dalle riprese televisive mi hanno detto che era leggermente fuori gioco, e leggermente significa è anche molto difficile da vedere. Mi piacerebbe che si smettessero nel luogo comune di dire che gli arbitri italiani sono più forti del mondo. Queste le parole di Sarri che a lei non sono piaciute? Diceva. No, non mi sono piaciute, dopo vi spiego subito il perché. Volevo fare una considerazione sulla partita di ieri. Il Napoli ieri, secondo me, ha perso non perché ha sbagliato Sarri o la squadra non è scesa in campo o per l'arbitro. Ha perso semplicemente perché ieri chi ha visto la partita e capisce un minimo di calcio ha visto che il Bologna ha fatto un pressing asfissiante e oltre a essere stato messo bene in campo da Donadoni per 70 minuti e non ha fatto giocare il Napoli come il suo solito. Quindi merito al Bologna, questa è la realtà, non c'è nessun motivo di poi l'ansia da primato, io non ci credo a queste cose. Ma se è così il Napoli dovrà aspettarsi molte partite di questo tipo, non un caso che Jorginho ieri è stato il peggiore del Napoli ed è il giocatore da cui passano tutti i palloni. Infatti ieri il centrocampo ha sofferto sicuramente proprio per la partita agonisticamente di una forza sovrumana, va a dir poco, che a me mi ha lasciato proprio sorpreso come ha giocato il Bologna. Io non riesco a capire come abbia quella posizione in classifica. A me no, dopo averlo visto anche con la Roma su quel campo e con mille chiacchiere intorno. Pierluigi, ti faccio sentire un paio di tue telecronache circa un certo giocatore. Urbano. Cambiassa messo fuori dall'altra parte, 1-1 e gol, non c'è fallo, e gol di scesa libera contro Fre, e gol, ancora e gol, destro, Fre! Loro Flores verso Pasquale, Comotto in ritardo, Pasquale numero, Comotto riesce a chiudere, sta arrivando Sanchez, ancora Comotto in difficoltà, Floro Flores, occhio al destro, Super Fre! Super Sebastian Fre al telefono con noi. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io ci ho messo circa 10 anni prima di smettere di dire Frey e dire Fre, Tu sai che sei uno di quelli che sui quali c'è il dibattito, diciamolo una volta per tutte. Si dice in italiano si dice Frey. Sì. Con la pronuncia italiana, certo. E con la pronuncia francese dice diverso, quindi per quello che c'è stato questo dibattito, però finché mi avete chiamato potevate chiamarmi come volevate, non c'era problema. Senti, ma 35 per un portiere no, sono pochi per ritirarsi, Seb. Secondo me si poteva andare avanti ancora un po'. Tra l'altro, Sebastian Frey, terzo straniero con più presenze in Serie A, 466 dopo Zanetti Altafini, un pezzo di storia del nostro calcio recente. Non sono troppo pochi 35 per piantarla lì? Beh, diciamo sì, che fisicamente comunque poteva andare avanti ancora un po', e che psicologicamente ero un po' stanco. Ho provato a fare questa esperienza in Turchia, il primo anno diciamo che è andata molto bene, e il secondo anno diciamo che hanno cambiato tutti i dirigenti e la presidenza, e agli stranieri ci hanno fatto un po' di guerra, e lì ho capito che comunque in generale il calcio stava perdendo un po' di valore, tra cui il rispetto che una volta comunque, insomma, io l'ho vissuto nel periodo bello in Italia, e c'era questo rispetto, e mi sono fermato quest'estate a casa e ci ho pensato fino a due giorni fa, diciamo, perché anche quest'estate mi sono arrivato un bel po' di proposte. Ho preferito riflettere ancora su quello che volevo fare, poi adesso ho detto basta. Sì, continuare con questo spirito che ho sempre detto, che finché la motivazione c'era e che con la testa c'ero, sarebbe stato un grande piacere svegliarsi, andare ad allenarsi. E lì ultimamente con la testa era diventata un po' complicata, e quindi ho detto, siccome rispetto questo sport che mi ha dato tantissimo nella vita, per tutto, ho preferito dire basta e lasciare, diciamo così, il calcio per pensare ad altro. Pier, mi sembra una motivazione perfetta quella di Fren. Sì, ma no, ognuno fa quello che gli pare, e devo dire che sicuramente Fren non è incappato nell'errore nel quale assolutamente in buona fede legittimamente possono incappare tanti campioni, nel senso che poi andarsene in maniera un po' malinconica fa male. Io credo, anche se chiaramente c'è un infortunio, per esempio, che Luca Toni, che ha appena annunciato di volersi ritirare, questa domanda se la stia facendo, ma è ovvio che l'anno scorso da capocannoniere chi poteva pensare, no, che si trovasse con un Verona così in difficoltà, e poi ripeto, ovviamente è stato bloccato dall'infortunio. Lo stesso Di Natale credo che adesso abbia tutta una serie di pensieri che si affollano nella testa. Sono giocatori meravigliosi, è che è difficile fermarsi quando sei ancora il Di Natale dell'anno scorso, il Toni dell'anno scorso, e poi alla fine non è neanche giusto, e poi alla fine decide sempre la persona nel momento in cui la vita gli propone questo tipo di suggestione. Quindi essenzialmente quando non ti va più, certo, quello deve essere l'indicatore, il momento. Noi dobbiamo essere da questo punto di vista bravi nel sottolineare, insomma, le carriere leggendarie, anche quando poi magari inevitabilmente per motivi anagrafici un pochino calano. Senti Seb, ho letto che nel tuo messaggio di addio hai detto: ho voluto bene a tutte le mie squadre, le ho tutte nel cuore, Verona, Inter in Italia, almeno Parma, Fiorentina, Genoa, ma chi ti piacerebbe vincesse lo scudetto? Guarda, è ovvio che se fosse un folle ti direi mi piacerebbe che tutte queste squadre vincessero qualcosa, poi c'è la logica e ovviamente c'è il potere della società, il potere delle squadre. Guarda, ti devo dire che quest'anno vedo una Fiorentina che mi piace tantissimo, bella fresca, che ha della qualità, ha un allenatore che comunque che stimo, che rispetto, che è stato il mio ex compagno di squadra, c'è l'Inter che comunque si è ripreso, e ovviamente io tra queste tre butto dentro anche il Napoli, che il Napoli, vabbè, ha fatto un passo falso ieri o due giorni fa, ieri. Però è una squadra che è forte, è una squadra che è molto forte, e io penso che il campionato, e poi ovviamente c'è la Juve che bene o male adesso si sta riprendendo, sta salendo, penso queste squadre io le metterei nello stesso sacco, nello sacco scudetto. Sacco scudetto non è male, Pardo. Il sacco scudetto, il sacco scudetto non è male, non è male per niente. E invece volevo parlare un attimo di portieri. Sì. Chi è il miglior portiere del campionato? Cioè, mi sembra che l'Inter delle ultime partite si sia un po' emancipata dall'Handanovic dipendenza. Contro il Genoa ha vinto 1-0, ma ha vinto bene, senza rischiare mai. Però, insomma, Handanovic mi sembra che nel primato dell'Inter c'entri molto, o sbaglio? Beh, guarda caso, tre squadre con tre grandi portieri: Buffon, Handanovic, sì, e Reina. Sì, sono, sì. È che alla fine nel calcio non, non bisogna. Cioè, poi c'è la gente che fa finta di non vedere, di non pensare a questa cosa qua, ma i grandi allenatori, le grandi società lo sanno che comunque in una grande squadra, che possa essere anche la migliore squadra del mondo, comunque ci vuole un portiere all'altezza, perché è più difficile giocare in queste squadre, perché non sei impegnato come altre squadre, magari 20 tiri a partita, in cui tu sai che comunque sarai sempre impegnato, però il portiere è quello bravo, quello che fa la differenza, che ha bisogno di un intervento, quello decisivo lo fa e in quel momento cambia la partita. Sì, verissimo. Poi dicono, queste squadre ce l'hanno. Mi fanno morire da ridere poi quelli che dicono: ah sì, però Handanovic fa 10 parate a partita, ha salvato il risultato, eccetera, come se il portiere non facesse parte della squadra. Un grande portiere è un patrimonio della squadra. Questo vale per Buffon, Reina. No, sicuramente, però è vero pure che se subisci tanto, sì, e quindi qualche volta risalva il tuo portiere, può essere un indizio del fatto che alla lunga potresti pagare. Detto questo, l'Inter delle ultime partite mi sembra una squadra molto migliorata. Contro il Genoa, contro il Genoa non è l'1-0 che c'è stato contro il Torino, contro la Roma. Contro il Genoa è un 1-0 largo, certo, che, certo, che poteva essere anche di più, certo. Grazie Seb, grazie Sebastian Fren, ci sentiamo, grazie presto, per avermi telefonato, vi seguo. E dove sei? Dove sei? Geolocalizzati. Se ti volessimo invitare a Tiki Taka, dove sei? Devo andare una fly dove? Sono a Nizza, sono a casa, però non ti nascondo che torno spesso in Italia, che sono invitato da amici, un po' di eventi, quindi settimana prossima sarò a Milano, poi devo tornare a Firenze. L'Italia ci sono sempre. E quindi ti cerchiamo, ti cerchiamo sempre. Stai a 20 chilometri. Sì. 20 km per prendi la macchina, vai verso 20 miglia, subito immediatamente portati al confine. Traffico. Ciao, tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. Tutti convocati, 800240024, il numero verde, e adesso ascoltatori. Roberto da Roma, buongiorno. Buongiorno, una osservazione per Pardo e una Dica. Per Genta. Sì. Allora, Pardo, la Roma non ha né gioco né equilibrio. A parziale giustificazione c'è che a Bologna piove troppo, all'Olimpico c'è troppo sole e forse a Torino di sabato alle 3 non siamo preparati a scendere in campo. Per Genta invece c'è il fatto che l'Inter e l'Empoli hanno gli stessi gol segnati o quasi, però una è prima, l'altra invece non mi pare. Una spiegazione la date voi. Beh, la spiegazione è che guardare alla voce difesa e alla distribuzione dei gol, perché anche quello di ieri fa tre punti, quindi su questa non è difficile. Pierluigi, tocca a te. Mi ha fatto sorridere innanzitutto. No, beh, la Roma ha dei problemi abbastanza evidenti, soprattutto di carattere difensivo. Detto questo, è chiaro che con i sé e con i ma non si va da nessuna parte, ma il campionato è talmente equilibrato che sarebbe bastato, diciamo, a scelta uno dei due, evitare uno dei due pareggi sul rigore al 90esimo fra Bologna e Torino, pur perdendo con l'Atalanta, per essere a un passo dalla vetta della classifica. Quindi questo in qualche modo conferma che anche la Roma, se riuscirà a mettersi a posto, potrà lottare per il titolo. Mettersi a posto, però deve risolvere delle cose, deve risolvere delle questioni che sono, secondo me, i tanti errori dei singoli, nel senso, certo, che comunque c'è un problema di Rudiger non è in questo momento un giocatore che possa giocare, secondo me, titolare, per quello che ha fatto vedere in questi tre mesi, e poi magari adesso da mercoledì esplode, ma ad oggi non è un difensore che può fare il titolare di una squadra che vuole vincere il campionato. No, ma guarda, ieri sera ho sentito dire allo zio Bergamo una cosa verissima, parliamo dell'Inter, della profondità dell'organico dell'Inter, due giocatori che in questo momento fanno stabilmente panchina come Ranocchio e Juan Jesus, alla Roma sarebbero titolari. La Roma credo che abbia cercato Juan Jesus quest'estate, e penso che si stia anche riaprendo la possibilità, anche perché l'Inter credo debba rientrare di qualche costo, sì. E quindi credo che sia un'ipotesi, ma assolutamente, cioè, qui abbiamo parlato tante volte di Sabatini, di quanto è bravo Sabatini dal punto di vista del talent scouting, che nel quale è il numero uno, però poi delle volte questa cosa gli prende un po' la mano, secondo me, e questo è stato un azzardo. Forse è meglio Yang Ambiwa. Sì, meglio sì. Yang Ambiwa, che hai venduto per 3,5 milioni, che è un giocatore non fenomenale, però sicuramente più esperto, no? Certo, più... con una stagione alle spalle, ne conosci pregi e difetti e sai che non ti molla a piedi, come invece sta succedendo con Rudiger. Mimmo Caserta, buongiorno. Buongiorno Carlo e buongiorno al signor Pardo. Una domanda per te, Carlo, di cui ho paura per la risposta. Perché? È una per Pardo. Sì. Allora, io penso così. Di essermi no, perso no. qualcosa su Platini. Perché non ho capito cosa ha fatto Platini, perché se è stato sorpreso con le mani nel cassetto, allora per me è una brutta cosa, perché mi crollerebbe un mito. Sì. Questa è la domanda per Genova. Beh, c'è un giudizio in corso, quindi più sì, che sì, vi ascolto che... poi per radio, sì. Volevo fare pure la domanda a Pardo, sì. Poi vi ascolto per radio. A Pardo volevo fare una preghiera più che altro, a parte l'orario dell'Tiki-Taka che è troppo troppo tardi. Dalla prossima siamo pronti, dalla prossima riguadagniamo mezz'ora. Oggi mezzanotte e 20. Liberaci, io chiamo da vicino Napoli, ma liberaci dalla presenza di Auriem. Vabbè, vi mamma libero mia. Anche. Liberaci mamma dal mia. Mare. Stasera abbiamo tre napoletani in studio, per tutti i gusti. Abbiamo il professor De Giovanni, Maurizio De Giovanni, autore di un libro di calcio che secondo me è la Bibbia oggi dal punto di vista sentimentale, è un libro meraviglioso che si chiama Il resto della settimana, che consiglio a tutti ai tifosi del Napoli, sicuramente perché parla di Napoli, ma è un libro che parla di tutti, quindi qualsiasi tifoso, anche della più acerrima rivale del Napoli, si emozionerà leggendolo. E poi Marco D'Amore, grande attore, insomma, famoso Ciro Di Marzio di Gomorra, grande tifoso del Napoli, che oggi tra l'altro è a Caserta, facciamo pubblicità, a presentare un film invece tosto, di denuncia su una vicenda molto italiana e molto complicata come quella dell'Eter. Quindi sicuramente, insomma, stasera ci sono tre napoletani, uno di suo gradimento ci sarà, penso. Poi... Liberaci dal male, no? Su Platini aspettiamo che si pronuncino i giudici, adesso c'è qualche novità, ma soprattutto oggi c'è qualche novità su Blatter, perché la FBI lo ha messo nel mirino indagando su una tangente da 4 soldi, 100 milioni di dollari su una questione di diritti televisivi. E anche qui liberaci dal male, vediamo un po' cosa succede su questo fronte. Ciao Pierluigi. Ciao amico mio, ciao. Antichi taccheggi. Grazie. Ciao, a domani. Dunque, adesso dovremmo fermarci per il GR, però io ho ancora un sacco di cose di cui parlarvi e da farvi ascoltare. Poi parleremo degli allenatori sulla graticola, sentiremo le tre migliori dichiarazioni della settimana e soprattutto parleremo di tutto quello che volete. Chiamate 800 24 00 24, vi aspettiamo qui. Ciao gente. Tutti convocati. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Convocati. Sempre con Giorgio De Luca, nostro autore, Paolo Corleone in regia e Giovanni Melchiori in redazione. 800 24 00 24 è il vostro numero verde per far sentire la vostra voce. Se volete scrivere 349-238-6666, messaggi e WhatsApp. Ho ricordato tutto? Mi pare di sì. Vi do una notizia di cronaca invece, che non piacerà agli juventini. Mario Mandžukić salta la sfida di Champions a Siviglia perché ha la febbre. Nella lista dei convocati non sono presenti anche Evra, Lemina e Cáceres. Prima di parlare con Walter della provincia di Udine, vi porto sul podio delle tre dichiarazioni più divertenti di questo weekend, a partire da Sarri. Sette mesi dalla fine del campionato, io mi posso stare, mi viene un'espressione toscana e non è molto eduata, te la risparmio, abbaccarmi i coglioni pensando che con 27 partite da giocare io ora sono a un punto sopra, sono un punto sotto, e noi bisogna pensare a lavorare, bisogna pensare a fare il meglio possibile. Allora, dal baharmi coglioni di Sarri alla dieta di Paolo Sousa. Io ho letto che Paolo Sousa mangia solo pesce e carne. Allora, a Firenze si mangia solo bistecca. Vorrei sapere se è a digiuno oppure ogni tanto qualcosa... No, mangio bene. Mangio bene. Cioè, mangio ci sono bene. Dei bei posti... Con l'energia che spengo devo mangiare bene. Anche se è informissima, mi sembra più asciutto di quando giocava. Pazzesco Paolo Sousa. Tra l'altro amatissimo dal pubblico femminile. Non vi sto a spiegare, non sto ad approfondire la questione. Invece vi faccio sentire chi va sul primo gradino del podio. Un ospite fisso su questo podio, Ferrero. Loro ancora sono rimasti a legge Ferri, che più di 100 all'ora non possono andare. Io dico che devono andare a 300 all'ora, perché sono dei validi calciatori e la legge Ferri non c'è più, per cui ci mettessero la testa, e con la testa, cuore, gamba e credenza si arriverà a un bel traguardo. La credenza soprattutto. La credenza un po' pesante da portare in campo sulle spalle, ma tra un po' parliamo di Sampdoria e credenze, e di Palermo e di Lazio. D'altro ci sono delle parole di Lotito che blindano di fatto Pioli, perché ha detto mai stato in discussione, la squadra è con lui, vedremo. Non se la passa benissimo, non si passa un grande lunedì, nemmeno Sinisa Mihajlovic oggi, dopo la partita piena di nulla del Milan ieri sera contro il Carpi. Walter, provincia di Udine, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato e complimenti per la trasmissione. Io non so nemmeno come cominciare, parlando di una società che ovviamente oggi non fa più audience, no? È il Milan. Sì. Io da voi vorrei un parere, ma un parere schietto, senza politichese, su questa squadra. Io ho guardato la partita ieri sera, a un certo punto mi sono detto, ma per fortuna che c'è il Milan con la divisa bianca, e mi sembrava che cominciassero a giocare, peccato che quello era il Carpi. Sì, quelli con la maglia orrenda, con la divisa orrenda, erano invece quelli del Milan. Appunto, e io non riesco a capire, lì non si riesce a fare un passaggio, due passaggi consecutivi. Io non so sti giocatori, io non riesco a capire, ma vi domando, ditemi che cosa ne pensate. Beh, io non riesco più a pensare niente di questa squadra, niente, non c'è niente. Io appena... Scusa ancora, ti dico ancora questa cosa. Posso... Io ho appena definito la partita del Milan piena di nulla, e lo confermo. Cioè... Appunto. Ma voi pensate che se lì davanti ci fosse stato Higuaín, ma avrebbe segnato un gol? A Bacca gli sono arrivati due palloni sul rilancio della difesa, punto. Uh-huh. Io non riesco a capire cosa insegnano sti allenatori, non lo so, non so più cosa pensare. No, io ho detto molte volte che a me sorprende il fatto che il Milan non abbia nemmeno, semplifichiamo, gli occhi della tigre che Mihajlovic aveva promesso. È una squadra che non mi sembra avere un'anima. Giampiero Timossi, buongiorno, che piacere. Ciao, buongiorno, come state? Molto bene, tu? Io bene, non parlerei mai di tigre con per Mihajlovic, però no. Che mi ricorda la tigre al fianco, non è un gran personaggio. No, è vero, va bene, perdonatemi il lapis. Dai, insieme alla credenza di Ferrero, a me perdonate il lapis, però lasciando stare gli occhi della tigre, queste cose qui. Parliamo di cuore, carattere, coglioni, di cuore, mentalità, ti viene qualche altra parola per definire questo che Mihajlovic non è... sembrava la più affidabile. Ah, va bene, Mihajlovic non è riuscito a trasmettere queste cose tutte insieme al Milan, che anche ieri sera è stato imbarazzante, cosa vuoi dire? Sì, e anche perché una squadra in qualche modo è stata costruita soprattutto l'ossatura della squadra, no? Partendo dal portiere, che è un portiere importante, centrale di difesa. Bacca è un ottimo attaccante, forse deve trovare ancora un regista, ma ne parlavo a lungo stamattina con il mio amico e collega Veronazza, che della Gazzetta, che ieri ha seguito la partita, e giustamente diceva, però so, appunto Olivo poi non è così male, quindi un regista in mezzo si potrebbe anche trovare. Credo che Mihajlovic non, il Milan non è così forte, ha speso qualcosina, non ha speso come altri club, perché poi ricordiamo che la Juventus ha speso di più e l'Inter hanno speso di più. È vero che la Juventus soprattutto aveva anche giocatori che con un mercato, quindi ha potuto vendere, il Milan no, perché non aveva niente, però ricordiamo che la Juventus vince da anni in Italia e è arrivata in finale di Champions. Il Milan sono anni che insomma sta facendo risultati pessimi e quindi deve ricostruire, e necessariamente forse doveva investire meglio di più. Però è anche vero che qualcosina Mihajlovic ha e non la sta valorizzando al meglio. Non ha molta personalità comunque in nessuno dei reparti, quindi questo è è una delle cose più evidenti, che più balza all'occhio. Mi dici cosa succede alla Sampdoria? Perché Montella è partito così male, è un eufemismo, in questo modo, tre sberloni alle prime tre partite e una squadra che non sembra raccapezzarsi in nulla. Mi sono fatto un'idea, cioè, ci ho pensato ieri sera guardando la partita, poi ne chiacchieravo anche con un altro allenatore, Ventura di Fe, che sta facendo invece benissimo al Toro, che però ha anche una grande passione per la Sampdoria, Giampiero, e credo che mi sono fatto questa idea, insomma, con Zenga i giocatori sapevano che dovevano dare qualcosa in più. L'arrivo di Montella in qualche modo li ha demotivati, ma adesso è arrivato Montella, un grande allenatore che ha fatto benissimo nelle ultime stagioni, ci pensa lui, invece no, non basta l'allenatore. Montella ha una squadra che ha dei valori non pessimi, perché comunque insomma Muriel e Der in avanti sono attaccanti di valore e sì, le grandi squadre hanno attacchi più forti, ma poi in quella che è la fascia della Samp credo che loro siano davvero ottimi allenatori o ottimi giocatori, però ha una squadra Montella decisamente inferiore rispetto all'ultima Fiorentina. Si è forse quindi portato dietro un po' di presunzione? Forse sì, e forse, ti ripeto, io mi sono fatto questa idea, mi sono fatto l'idea che i giocatori si sentano in qualche modo protetti, ma troppo protetti dall'effetto Montella, no? Da questo allenatore che è stato osannato giustamente per mille motivi, perché la tifoseria della Samp è affezionatissima a Montella, che ricordiamolo preferì la Sampdoria al Genoa, quindi insomma per i tifosi della Samp come è una bandiera, che comunque è arrivato per sostituire un allenatore che per mille motivi, in particolare forse la coincidenza tra la pessima prestazione e l'eliminazione dell'Europa e le dichiarazioni su Cassano, non era amato, non è mai stato amato Zenga dalla maggioranza dei tifosi della Samp. Così, vero che il presidente Ferrero, mi racconta il presidente Ferrero, a differenza del suo collega Zamparini, è molto sereno per tanti motivi, anche perché sa che io credo che debba andare avanti necessariamente con Montella, che probabilmente non è l'allenatore giusto per questa Samp e non è l'allenatore giusto in questo momento, e probabilmente, io dico sicuramente, l'esonero di Zenga è stata una scelta sbagliata. Ma sì, anche perché però la Zenga classifica non la giustificava, i giocatori hanno dimostrato, lo seguivano anche se non era amatissimo dall'ambiente, quindi non c'erano ragioni specifiche per questo esonero. A me sì, no, guarda, in questo momento io credo che i giocatori in tutta questa, in questo ennesimo vortice degli allenatori abbiano avuto un effetto contrario, lo che hanno cercato di difendere i tecnici che erano in panchina. È successo sicuramente a Palermo, in qualche modo è successo, credo, anzi che sia successo anche per un'altra bandiera, che era Mandorlini per il Verona, insomma è un allenatore che ha fatto tanto, è molto amato, sicuro. Esatto, e quindi credo che siamo i giocatori in questo momento. Ma sai, secondo me è in qualche modo di proteggere gli allenatori che ha. Sì, ma il discrimine è quello. Cioè, secondo me, quando un allenatore è sfiduciato, non solo dalla società, ma anche dai giocatori, quello è il momento in cui probabilmente è obbligatorio cambiare. A Palermo non è ancora ufficiale, ma aspettiamo la notizia, stretto giro di posto, tornerà Iachini. Ormai mi sembra abbastanza scontato, abbastanza evidente, abbastanza scontato. Non so quale, è calato il silenzio su Formello dopo la sconfitta con la Juventus. Anche se Lotito ha detto che non c'è mai stata l'idea di cambiare Pioli e che tutta la squadra è con lui, e quindi credo che sia una buona idea quella di Lotito. Anche secondo credo me. Credo che sia un'ottima idea. La Sampdoria io credo che sia un po' obbligata. Ieri sera mi raccontavano che anche dopo la sconfitta il presidente Ferrero canticchiava canzoni napoletane, mi sembra che mi abbiano riferito, io non l'ho sentito. A Milano, ma non può richiamare Zenga perché credo che Zenga abbia già trovato un accordo con un club arabo, quindi dovrebbe pagare mi pare 1 milione, poi Zenga non credo abbia nessuna intenzione. No, poi Montella ha un contratto pesantissimo a Genova, esatto, dovrebbe pagare una clausola e quindi andrà avanti con Montella, che avrà la forza per uscire, dovrà insomma, come dicevi giustamente tu, perdere un po' di spocchia, diciamo così, se non presunzione, mettersi seriamente al lavoro come sta a fare, perché ho dimostrato di saper fare, perché non ha allenato solo la Fiorentina e la Roma, ma ha allenato anche squadre con una squadra meno attrezzata, e potrà far bene e risollevare la Sampdoria, che in questo momento è in una zona delicata della classifica. Tutte le squadre, cioè Genoa e Sampdoria, entrambe le squadre genovesi sono in una situazione difficile. Mentre in un Gasperini, campionato difficilissimo. Sento, un campionato difficilissimo, certo. Gasperini, nonostante la classifica, giustamente Gasperini non si tocca, lo hanno penalizzato sicuramente gli episodi, 7 giocatori espulsi nelle prime 14 gare. Adesso si lamentano molto anche i tifosi dell'Inter per le espulsioni, ma ogni volta che un nostro giocatore fa due falli prende sì, Mancini è divertente questa cosa, insomma, è anche legittima, però gli allenatori che in questo momento si lamentano di maggiormente sono, gli altri sono Mancini e Sarri, quindi singolare, no? come cosa, però anche questo è legittimo, credo che Mancini, guardando la partita sull'espulsione di D'Ambrosio, si lamentasse per un episodio precedente, cioè un fuorigioco fischiato agli Aic che non era fuorigioco, quindi aveva anche ragione, però insomma gli arbitri credo che più o meno, anzi sono sicuro, sì, poi stiano anche cercando di fare. Mi sembra pretestuosa anche la polemica di Sarri, che dice è ora di finirla di dire che gli arbitri italiani sono i migliori al mondo. Secondo me le generalizzazioni sono sempre sbagliate, ci sono bravi arbitri più scarsi. Certamente il nostro è un calcio estremamente difficile da arbitrare, forse il più difficile di tutti. Sì, però vedi, Sarri è un personaggio particolare. Billy Costa Curta mi diceva che assomiglia moltissimo a Sacchi, lui conosce bene Sacchi, io non conosco bene Sacchi, avevo qualche perplessità su questa somiglianza tra Sarri e Sacchi, invece mi sa che ancora una volta Costa Curta aveva ragione, perché comunque ha subito messo in valigia Sarri tutta una serie di caratteristiche che sono degli allenatori che sono abituati ad allenare i grandi club, e tra queste anche la possibilità di lamentarsi degli arbitri, un'altra volta del calendario, poi dei turni di Europa League, insomma, e quindi tutto fa. Questo del è un calendario delle nazionali. Molto, esatto, sì, no, sì. È il caso di Signe, tutto fa, perché questo lo ripetiamo. Io credo che sia il campionato più bello, più difficile, ma anche più bello per gli allenatori, perché i livelli delle squadre, delle squadre più o meno si equivalgono, c'è molto equilibrio in testa, metà classifica e in coda, ed è proprio in questo momento che l'allenatore deve dare qualcosina di più. Mancini lo sta facendo, Sarri lo sta facendo, Allegri lo sta facendo, perché le critiche di inizio stagione non erano mai state rivolte ad Allegri, se non per l'incapacità già dimostrata al Milan di imporre alcune sue scelte, quindi di orientare con forza il mercato. Questa era l'unica critica che si poteva fare. Però c'è stato un momento in cui anche lì l'ambiente juventino era tornato a rumoreggiare nei confronti di Allegri. Senti, parliamo con un tuo concittadino, Luca da Genova. Buongiorno. Ciao Carlo, saluto Ciao. Anche il boss di Genova, l'altro. No, ma che boss, ma che boss. Grazie, ma il boss di Genova, Giampiero Timosi. Sì, ma mi prendono a schiaffoni quando lui hanno dell'altro che il boss. Comunque caffè offerto, quando li fai vedere dalle parti del centro, caffè offerto. Sì, sì, via Vente, San Vincenzo, ma anche se secondo me tu sei di là, Timosi, purtroppo tu sei di là. Però hai detto delle cose tutte giuste. E io sono uno dei pochi che stava con Zenga, Carlo, uno dei pochi. E il gruppo, che lo vedo io a Marassi le domeniche, il gruppo Eder segnava, abbracciava subito Zinga. A Montella non no, ma anche io ho avuto la sensazione che i giocatori, al di là di qualche eccezione, ad esempio Cassano, ho avuto la sensazione che i giocatori fossero con lui, ma d'altra parte tantissime, non fa quei risultati, no? Tantissime, questo fa capire che a Montella non lo... ieri Fernando è uscito, se l'ha visto anche Timossi, se l'ha visto Fernando è uscito, è stato cambiato, a Montella neanche, neanche uno sguardo. Il gruppo, fidati, stava con Zinga, eppure anch'io, eppure io tifoso. Guarda, quindi... guarda che tanti stavano con Zinga, è un errore di Ferrero che ne sta facendo di tutti i colori, Carlo, di tutti i colori. Ma di tutti i colori, è chiaro che se un gruppo sta con un allenatore, il cambio dell'allenatore è sbagliato, come sta a dimostrare Sampdoria, vediamo, il Palermo certamente, perché... Però posso chiedere io una cosa, facciamo una cosa io all'amico genovese che, sì, che mi dice di stare, ma lui non era contento dell'arrivo di Montella, perché al di là delle perplessità su Zenga, e sicuramente lui sa, però l'arrivo di Montella è stato accolto da tutti i tifosi della Sampdoria. Anch'io sì, anch'io sono contentissimo, adesso sono pentito, però io in verità Zenga, cioè, secondo me ha fatto bene. Con l'Inter abbiamo giocato benissimo, se ti ricordi. Con la Roma 2-1, a Napoli per poco vinciamo. Cioè, non era brutto Doria, il calcio 5-2, vi ricordate tutti, ragazzi? Sì, il calcio 5-2. Campionato. No, certo, certo. Era una Sampdoria che giocava bene e aveva soprattutto in Eder, ma non solo nell'attaccante della nazionale, giocatori molto motivati e che in quel momento stavano sicuramente offrendo prestazioni al top di quelle che sono le loro potenzialità, sì. Questo non c'è dubbio, però insomma è l'unione tra una parte comunque dei tifosi della Samp che non amava Zenga, che poi ormai molte cose viaggiano su Twitter, quindi no, mi ricordo che subito dopo lui, prima delle donne di Zenga, era partito da parte di alcuni tifosi, anche da parte di alcuni amici che storici tifosi della Samp che conosco l'hashtag Zenga vattene, e questo malcontento di una parte dei tifosi si è unito poi all'esuberanza del presidente della Samp Ferrero, che ha deciso che diciamo che su scala diversa una sorta di replica del caso Mazzarri dell'Inter. Luigi, provincia di Pavia, buongiorno. Buonasera gente, io volevo dirle solo questo, un detto nostro agricolo in merito alla Sampdoria, la scopa male dal manico, cioè la Sampdoria metteteci Montella, metteteci Zenga, metteteci il padre Pio, ma c'è un presidente che è come Gianni e Pinotto, cioè di cosa stiamo parlando? Gianni o Pinotto? Lo scelga lei, cioè adesso siamo qua a parlare, di che cosa? Di aria fritta? La scopa male dal manico, però adesso c'è anche la credenza, cioè ci mettiamo dentro che la credenza e poi cosa ci aspettiamo dalla Sampdoria? Ma il problema non è la Sampdoria, ho un presidente che oggi le comiche, cioè, ma scherziamo cosa? Beh, insomma, l'anno scorso non mi sembra che la Sampdoria abbia fatto. L'anno scorso ha scopato non male, quest'anno con qualche difficoltà in più e probabilmente con qualche errore. Prima di salutarti, Gian Piero, parliamo anche con Paolo da Pisa, che mi sto divertendo. Buongiorno Paolo. Ciao a tutti, buongiorno a voi, ciao a tutti. Sentite, io volevo dire una cosa, no? Prima di farvi una domanda sulla Fiorentina, ma credenza in questo caso è corretto? È corretto. È un sinonimo di convinzione che credenza specificatamente si usa in programmazione neurolinguistica. Sì. Cioè è una convinzione radicata su un determinato argomento. Ho capito. Io mi arrendo all'Accademia della Crusca, ma a me sembrava un termine abbastanza strano. Sarà stato corretto. Stato immobile della cucina, ma in questo caso credenza si usa. Diciamo che è caduto un po' in desuetudine negli ultimi anni. Io non lo userei né lo scrivere. Ma probabilmente quella tecnica lì è usata in ambito sportivo, in ambito aziendale, per cui probabilmente il nostro amico Viperetta l'ha sentita. Vabbè. Pensiamola così. Mi dica della Fiorentina, che le faccio rispondere da Gian Piero Timossi. Bene, Gian Piero Timossi, un saluto. Se diciamo una buona idea, se potrebbe essere una buona idea andare in prestito a giocare Pepito Rossi. Per me no, però magari voi siete esperti meglio di me. Va bene. Anche per me non è una buona idea. Non è una buona idea, anche se sono convinto che per Paolo Sousa in questo momento la prima scelta in attacco sia Carini, ed è giusto così, per tutta una serie di motivi, ma anche perché lo notiamo con la Roma con Dzeko, la Juventus con Mandu, che alla fine si gioca tanto, si cercano soluzioni, però un attaccante grande, grosso, capace di fare gol lassù serve. Sì, ma la domanda è come sta Pepito? Come sta? E soprattutto io credo che Pepito stia bene. Credo che Pepito stia forse meglio di quanto ci vogliano far credere in qualche modo. La Firenze è giusto che ha necessariamente bisogno di giocare, avere dei tempi di recupero, ha bisogno però anche di giocare. Se sta bene, ha bisogno di giocare. Però insomma, la prima scelta è un'altra. La prima scelta è un'altra, e lui però in una Fiorentina che vuol fare campionato di diversi, io credo abbia meno possibilità rispetto alle concorrenti, però abbia comunque qualche possibilità di giocarsela per lo scudetto, e vuol continuare a far bene, iniziare a far meglio in Europa League, credo che due attaccanti così servano. Quindi io fossi nella Fiorentina, credo che questa sarà la scelta della Fiorentina, mi terrei stretto anche per Pito Rossi. Grazie Giampiero. Boss ciao, di Genova. Grazie a voi. Ciao, a presto. Ciao. Grazie Giampiero. Dunque ci fermiamo qui, ma torniamo naturalmente domani anche per parlare di Juventus, di Milan, di Inter, ma come sempre tutto quello che volete. Giorgio De Luca, nostro autore, Paolo Corleoni in regia, Giovanni Melchiori in redazione. Ciao a tutti. Arrivederci ragazzi, ciao.